9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Buongiorno cari ascoltatori, buongiornissimo, buongiovedì 27 settembre, San Vincenzo De Paoli. Cosa vogliamo dire all'inizio? Solidarietà ad Alessandro Sallusti non significa pensare allo stesso modo e fare il direttore di un giornale come lo ha fatto lui, ma andare in carcere per un'opinione è solo il segno di una legislazione barbara. E su questo chi non la pensa così è fuori dalla civiltà. Ci sono dei disgustosi e rivoltanti estremisti che dicono: ma sì, in galera Sallusti. Per un'opinione? Chi manda la gente in galera per un'opinione è fuori dalla civiltà e dalla libertà. E questo non lo dico perché ho la tessera di giornalista, lo dico perché morirei per il diritto di dare un'opinione. Quando si offende qualcuno si deve rispondere pecuniariamente, non mandando in carcere la gente. Vergogna! Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. Eh beh certo, si potrebbe sì sperare in un mondo migliore, ma che cosa fare quando poi si apprende la Polverini si è dimessa in televisione e non si è ancora dimesso di fatto e ha nominato altri dirigenti alla Regione Lazio? Ci si dimette solo in televisione in questo paese? Beh, di questo ne parleremo quest'oggi nella trasmissione, perché ci vorremmo un problema. Il problema è il caso di rimettere mano a un nuovo referendum contro il finanziamento dei partiti, quello ordinario, cioè quello attraverso i contributi elettorali, con il quale la politica ha aggirato naturalmente il primo referendum su cui i cittadini si erano espressi inequivocabilmente contro il finanziamento pubblico, ma la politica lo ha fatto rientrare dalla finestra attraverso il regime dei rimborsi elettorali e vi ha aggiunto poi la moltiplicazione pingue, una moltiplicazione rapida e legittima come procedure di adozione delle decisioni, come abbiamo visto nel Consiglio regionale del Lazio e come abbiamo visto in molti altri consigli regionali, di abbinare un secondo pilastro, oltre al rimborso elettorale ai partiti, quello di moltiplicazione delle risorse attribuite per scopi di politica ai gruppi regionali e così via. Bisogna ricominciare dal referendum e rimobilitare i cittadini? C'è chi pensa di sì, c'è chi ha già iniziato a mettere mano al quesito e tra poche settimane inizia la raccolta delle firme. Devo dirvi la verità, su questo punto io la penso come loro, nel senso che in un paese in cui gli strumenti di democrazia diretta alla Svizzera sono così limitati, in un paese nel quale sulle tasse eccetera eccetera i referendum non si possono fare, in un paese nel quale l'accesso diretto alla Corte Costituzionale, come per esempio funziona in Germania, è vietato, in un paese nel quale la giustizia ha un mucchio di problemi, perché per far valere dei diritti, se sono diritti economici, aspetti 6-7 anni per il primo grado, quando negli Stati Uniti il primo grado ti arriva in un anno e mezzo nei distretti che sono più pieni di cause, e quindi la giustizia è molto scassata. In queste condizioni io credo che con questa penuria di strumenti di espressione della democrazia dal basso, forse, anzi, io dico senza forse, però rispetto chi la pensa diversamente, rimettersi a raccogliere le firme e a votare il referendum contro il finanziamento dei partiti riserva, perché altrimenti credo che poi la politica ci riservi quello che ci ha riservato dopo il primo referendum, che inequivocabilmente avete detto cambiate musica. Non l'hanno cambiata la musica, l'hanno peggiorata a proprio vantaggio. E allora qualche cosa bisognerà pur fare, essendo più vigili dell'esperienza prima, cioè del fatto che il primo referendum non è servito a niente. E allora, nella curiosità di sapere come la penserete nelle vostre telefonate, se prevalga la disillusione e lo scetticismo, cioè arrendersi agli artigli e alla fame atavica dei partiti italiani, oppure se invece prevalga dalla protesta che è così vastamente diffusa nell'elettorato italiano la voglia di riprendere a impegnarsi, nell'attesa di questo intanto ci siamo detti facciamo esporre l'iniziativa e il quesito da chi concretamente ci ha messo mano, e cioè l'Italia dei Valori, ed è qui con noi Felice Belisario, che è il capogruppo dell'Italia dei Valori al Senato. Buongiorno e grazie Belisario. Buongiorno a lei, dottor Giannino, e ai radioascoltatori. Allora, come funziona il quesito? Come vi è venuta l'idea? Quando inizia la raccolta delle firme? Come e con chi? Allora, l'idea ci è venuta perché in un momento in cui gli italiani sono non solo disillusi, ma, se mi consente un termine forte, incazzati con la politica, noi abbiamo deciso di riportare tutto indietro al 93, quando gli italiani avevano cancellato il finanziamento pubblico, che poi è stato reintrodotto come rimborsi elettorali. E quindi abbiamo chiesto ai cittadini se confermavano, e io sono convinto che confermeranno, che i partiti devono fare un taglio davvero, davvero molto forte, per noi radicale, di tutti i soldi che prendono. Iniziamo la raccolta il 13 di ottobre e contiamo di depositare le firme, per rimanere nei tempi che la legge ci prescrive, nei primi giorni del prossimo anno. Ma l'abbiamo abbinato anche ad un altro referendum, poiché sentiamo parlare di rimborsi, di soldi ai deputati, ai consigli regionali, abbiamo abbinato il primo con un secondo referendum, quello che taglia le diarie ai parlamentari, e quindi a cascata poi le taglierà necessariamente anche ai consiglieri regionali. Allora, su questi due quesiti, la raccolta delle firme quando comincia? Il 13 di ottobre. Lo facciamo? Lo facciamo con tutti quei movimenti della società che lo vogliono fare, se si vorranno aggregare altre formazioni politiche, noi siamo pronti a condividere la responsabilità della battaglia referendaria, perché non è un problema di mettere una bandierina su di una cosa giusta e rendere davvero, se ci riusciamo, e senza demagogia e senza giri di parole, un servizio all'Italia. Naturalmente, fatti esprimere i cittadini, io mi auguro che si raccolgano le firme, che questi referendum si facciano, e darò volentieri una mano, però naturalmente poi resta il problema aperto di quale è il confronto su un sistema che consenta ovviamente alle forze politiche di vivere non attraverso il mangia-mangia del denaro del contribuente, di cui abbiamo visto episodi veramente incredibili un po' dovunque e a macchia di leopardo, ma tutti i partiti con rarissime eccezioni, ma purtroppo il fenomeno è esteso. E naturalmente nel confronto poi le opinioni sono diverse. La mia opinione è, per esempio, che bisognerebbe procedere a una riforma ordinamentale che incentivi moltissimo fiscalmente le forme di autofinanziamento, e posso capire poi invece che ci sia una parte pubblica per il sostegno ai servizi di erogazione della politica, ma limitata e centralizzata. Cioè, io sono contrario a mettere i soldi in mano, perché i soldi in mano significa che poi restano appiccicati ai polpastrelli di chi li prende, perché è troppo evidente la lezione di casi come Belsito, Lusi, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, cioè c'è dovunque questo fatto. Però lei, se dovessero dire, senatore Belisario, a che sistema penserebbe dopo un'eventuale vittoria dell'abrogazione del contributi, rimborsi elettorali e fondi ai gruppi parlamentari e regionali, che tipo di sistema indicherebbe? Innanzitutto bisogna fare subito la legge sui partiti. I partiti non sono regolati da una legge dello Stato, sono delle associazioni non riconosciute, per cui prendono contributi pubblici e non rispondono di nulla. Quindi una legge sui partiti che ne stabilisca anche la natura giuridica, in modo tale che siano dei riferimenti certi. Poi una legislazione, come dire, leggera. In America le campagne elettorali si fanno con i finanziamenti da $1, $5, $10, che sono assolutamente trasparenti e ognuno sa quello che dà, e quindi anche questo è importante, perché dobbiamo evitare anche che i gruppi di pressione si scaricano ingenti somme che danno ai partiti e poi fanno pressioni magari indebite per ottenere cose che non devono ottenere. Io dico che bisogna mettere in movimento la macchina. Guardi, noi oltre un anno fa depositammo le firme per l'abrogazione del Porcellum e si disse che non era il caso di fare un referendum. Noi invece ritenevamo che senza il referendum la legge non l'avremmo fatta e siamo stati facili profeti. Quindi noi dobbiamo fare il referendum sul finanziamento pubblico e sulla diaria parlamentari ed altro, e poi ci dobbiamo sedere a tavolino per trovare una forma seria, senza imbroglio, non più finanziamento che esce dalla porta e rientra dalla finestra sotto la voce rimborsi elettorali. Anch'io credo e do atto a Belisario, all'Italia dei Valori, a chi, pochi altri, credono in questa metodologia, che la pressione è dal basso, quindi così ti referendari anche quando la politica istituzionale ti guarda scettico, inarcando il sopracciglio, dicendo vuoi fare un po' di propaganda, eh? Però io credo che poi queste iniziative servano a premere dal basso. Ovviamente ogni partito politico ci fa il suo battage, però l'evidente, macroscopico, intollerabile tradimento di quel voto che gli italiani avevano dato su questo tema alla fine della Prima Repubblica e la realtà della Seconda Repubblica, costruita proprio su messaggi nel quale ma no, noi non siamo i vecchi partiti, noi siamo persone che hanno realizzato imprese di qua, di là, pra, pra, pra, pra, pra, pra, la realtà sotto i nostri occhi squadernata, dopo anni in cui c'è tentato il tentativo di minimizzarla, è stato evidente, oggi porta alla necessità di ripartire dalla voce dei cittadini. Vedo gli sms che alcuni hanno delle perplessità, ma hanno delle perplessità non sul tema, ma su magari la forza politica che l'ha intrapresa. Se avete dei dubbi su questo, benissimo, allora aggiungetevi a quella forza politica, perché questo è il punto. Cioè, io non mi sento su questioni di merito come queste di dire se ho qualche problema nei confronti della posizione che ha l'Italia dei Valori su questo o quell'altro argomento, non è una buona battaglia. Questa, a mio giudizio, è una buona battaglia, e io mi augurerei che il maggior numero di forze politiche, di associazioni, di chi può dare una mano a raccogliere le firme, di chi si può impegnare in questo tipo di campagna, desse una mano. Sugli obiettivi concreti si collabora, non è detto che bisogna essere d'accordo sulla visione generale della politica economica, del mondo o della politica estera, ma questa è una piaga concreta rispetto a come milioni di italiani devono stringere la cinghia e vivono la realtà dei loro giorni rispetto a queste vite da sarda napali di quart'ordine, senza dignità e senza un minimo di capacità, oltretutto, che ci ha offerto la politica italiana dei candidati paracadutati. Questa è la mara realtà. Quindi per me, lo so che avete, vedo gli sms, molti dubbi, e quando è capitato che chiamassi Travaglio per sulla polemica capo dello Stato, magistrati, e anche lì nel merito io la pensavo esattamente come Marco e come il fatto. Per quello che mi riguarda, questa è una buona battaglia, perché bisogna unire dal basso le voci di milioni di italiani. Capisco lo scetticismo, però io incoraggio invece la presa di coscienza. Sarà inutile, eppure bisogna ripeterlo. Quando si ripetesse il risultato del referendum dell'inizio degli anni 90, e i politici dovrebbero riazzerare e reinventarsi altre gabole e poi ricominciare, perché queste sono battaglie in cui solo chi la dura la vince. Io ringrazio Felice Belisario, quindi do a loro l'Italia dei Valori e a chi si aggiungerà a loro appuntamento, perché faremo battage per la raccolta delle firme su questi quesiti, e spostiamoci invece in chi deve fare il suo mestiere e in questi giorni continuare a parlare dei tanti piccoli o grandi pezzi di questo affresco fantastico della politica del mangia-mangia, per così dire. E abbiamo qui con noi, a questo proposito, il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, perché il direttore del Gazzettino Roberto Papetti giustamente aveva scritto 2 giorni fa, a proposito della dell'estendersi della presenza in molte altre regioni italiane di casi analoghi, magari non per portata, ma analoghi per regolamenti e disposizioni incomprensibili che consentono ai singoli consiglieri di spartirsi risorse aggiuntive rispetto alla loro retribuzione senza giustificativi, e aveva scritto appunto di quello che capitava anche in regione Veneto. Se non che lo ha scritto sul Gazzettino e non lo avesse mai fatto, perché la politica veneta gli è insorta contro. È così, Papetti? Buongiorno innanzitutto. È esattamente così. Noi abbiamo raccontato quello che succede in Veneto, che certo non è paragonabile per entità, dimensione a quello che è emerso in altre regioni d'Italia, ma che era comunque secondo noi un esempio illuminante di come funzionano le cose nella politica italiana, in alcuni consigli regionali, ad altri livelli della politica. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che ogni mese dell'anno, Natale, ferie comprese, ciascuno dei 60 consiglieri del Veneto intasca 2.100 euro netti, che si aggiungono allo stipendio, ai rimborsi spese per le attività istituzionali, ai rimborsi chilometrici, casa, sede regionale e a tutte le altre voci che compongono lo stipendio. Riceve questi 2.100 euro esentasse, fuori busta e senza il dovere di presentare alcun tipo di pezza giustificativa. Ma non solo, fino all'aprile scorso questa voce era inserita nello statino, nel cosiddetto busta paga dei consiglieri regionali, con una voce bonus non imponibile, una cosa un po' strana. Da aprile, senza che questo fosse comunicato a nessuno, questa voce è stata trasferita ed è stata affidata ai gruppi consigliari, che erogano loro automaticamente con un bonifico ai propri consiglieri questa cifra. Il capitolo di spesa da cui è stata tratta questi soldi, che a livello annuo vuol dire 1,5 milioni di euro, quindi non una cifra lì, sono prelevati dalla voce spese impreviste, che fa anche un po' ridere, visto che mi sembra invece che sia tutto previsto, tutto pianificato in modo tale da garantire tutto a tutti. Noi abbiamo raccontato questo, abbiamo parlato di fuori busta e di pagamenti in nero, perché questo è un modo magari non voluto, ma di fatto in questo modo si evita di pagare le tasse su una voce di stipendio su cui invece qualsiasi altro cittadino, se prendesse quei soldi, dovrebbe pagare le tasse, e la politica veneta tutta si è inalberata, ha minacciato querele, salvo poi il giorno dopo annunciare che un certo partito adesso ha annunciato che da adesso in poi loro però erogheranno questi soldi solo a fronte di spese certificate. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha annunciato che adesso online metteranno tutte le voci, che verrà fatta una grande operazione di trasparenza. Insomma, adesso si fa a gara a dimostrare che si è più trasparenti. L'unica cosa su cui non si fa a gara è la decisione che dovrebbe essere presa, cioè di rinunciare a questi soldi o chiedere che vengano inseriti nella busta paga e quindi assoggettati a tassazione come dovrebbe avvenire per tutti i cittadini, perché come ho anche scritto, se si scoprisse che in un'azienda, in qualsiasi azienda di questo paese, ci fossero 10, 12, 15 dirigenti che ogni mese ricevono dal proprio datore di lavoro 2.000 euro fuori busta, giustificati dal fatto che devono tenere relazioni sociali del territorio, se la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate li scoprisse, scatterebbe immediatamente un'inchiesta, si parlerebbe di nero, di fuori busta, di evasione, di elusione. Se questo vale per un'azienda, per i liberi cittadini, non capisco perché non debba valere per i consiglieri regionali del Veneto piuttosto che di altre regioni. Senta un po', ma i capigruppo che hanno reagito a quel che avevate scritto sul Gazzettino dicendo vi quereliamo tutti insieme, ci sono state eccezioni tra le forze politiche che consentano, se le sottolineiamo pubblicamente, di distinguere il comportamento, oppure tutta la politica presente nel Consiglio regionale del Veneto è insorta come un sull'uomo dicendo i giornalisti ci stanno infangando perché non è vero quello che dicono. Qualche eccezione c'è stata? No, allora ufficialmente no, dopodiché sono arrivate naturalmente telefonate di gente che dice noi non siamo d'accordo, questi sono pazzi, non si rendono conto di quella che è la realtà, ma insomma neanche questo mi sorprende. Io poi non mi scandalizzo neppure di questa reazione, purtroppo è la dimostrazione della distanza che c'è tra la politica italiana e il sentire la realtà della gente. Poi posso anche capire che i consiglieri del Veneto, che in altri momenti sono stati primi a ridursi l'indennità, hanno dei compensi oggettivamente inferiori a quelli di altri loro colleghi, nel momento in cui scoppia il caso Lazio, loro si ritrovano sulle prime pagine dei giornali e rischiano di essere equiparati ad altri, per così dire, protagonisti infausti della politica italiana in questo momento, se la siano presa. Ma il modo di reagire denota una scarsa sensibilità, anzi un'assoluta assenza di percezione di che cos'è la realtà, perché un politico serio e cosciente di fronte a un giornale che ha rivelato questo, l'ha raccontato, anche se l'ha raccontato con toni forti, ma questi sono i toni che bisogna usare per far capire a questi signori che devono cambiare, quello che deve fare è prendere atto, mettere immediatamente in azione correttivi, se necessario anche chiedere scusa dicendo abbiamo sbagliato, queste sono leggi che abbiamo ereditato magari, ma adesso ci impegniamo a correggerle. Minacciare querele non serve assolutamente nulla, anzi dà l'impressione, questo sì, anche se è un termine che io non ho mai usato, che esiste effettivamente una casta che utilizza in tutti gli strumenti a disposizione per difendersi, e questo non è bene innanzitutto per la politica, ma non è bene neanche per l'Italia. Io sono totalmente d'accordo con il direttore del Gazzettino Papetti. A mio giudizio il totale senso di impunità, perché questo è il termine che mi viene in bocca da usare, che dimostrano queste reazioni tardive di una classe politica del tutto analoga in questo, alle reazioni di stupore che avevano i segretari e vice segretari del partito della Prima Repubblica quando scoprirono che non funzionava più la loro arte dei pifferai magici. E nella Seconda Repubblica è incredibile come l'ipersemplificazione di lotta tribale contrapposta abbia fatto credere a stuoli di politici paracadutati nelle loro funzioni, paracadutati non scelti né dal basso né da partiti che non esistono più. Mi viene da ridere quando qualcuno mi dice il PD esiste davvero? Il PD certo che c'è, io dico sì, perché i segretari del PD li sceglie la base del PD. Mi ricordo un solo segretario del PD in cui si coinvolse la base nella scelta, il popolo dei fax, l'indicazione era Veltroni, il segretario quella volta fu D'Alema. Da allora i segretari sono espressioni di un patto tra oligarchi, cioè D'Alema, Veltroni e in minoranza le altre rappresentanti dell'anima del PD, che di volta in volta si sono attribuiti il ruolo. Bersani attualmente, e lo sapete perfettamente che è così, è l'espressione di quel patto di oligarchi, che è dire mettiamo un segretario che per il momento non impegna molto ma tiene insieme tutte le diverse aree, compreso Enrico Letti, la Bin, Enrico Morando, eccetera eccetera eccetera. Questo è ciò che più vicino resta all'idea di un vecchio partito, ma anch'esso non ha più niente a che fare con l'idea di scelta da basso. Quindi secondo me questo senso di impunità dei partiti che poi insorgono contro chi scrive dicendo ma vi prendete ogni mese 2100 euro, faccio notare a chi ci ascolta, supera di 200 euro la media del reddito mensile di più del 50% dei contribuenti italiani, perché il 50% dei contribuenti italiani ha una media di reddito mensile che non supera i 1900 euro al mese. Quindi qui stiamo parlando di una cifra considerevolissima rispetto alla condizione degli italiani, come sapete voi che siete in ascolto e che fate vita ordinaria. Ma il politico se la dà gratis, senza tasse e senza giustificativi, e insorge quando tu gli scrivi che se la portano a casa. Beh, di che cosa stiamo parlando? Grazie, viva a Papetti e colleghi del Gazzettino. Adesso ce ne andremo in Campania. Prima di andare in Campania però sentiamo qualche telefonata di ascoltatore. Alberto, che ci chiama dalla provincia di Varese. Prego Alberto. Buongiorno a tutti, grazie dell'occasione. Il discorso che volevo fare è un pochino più ampio, nel senso che parte da questi finanziamenti e da queste dimissioni annunciate dalla Polverini, che stamattina dicono invece non essere ancora attive, addirittura convoca una giunta, nomina altre 10 persone a mangiare i nostri soldi. Per arrivare al finanziamento pubblico dei partiti, dove giustamente abbiamo fatto un referendum come quello per il Ministero dell'Agricoltura, che poi lo cambiano e lo chiamano risorse agricole, e dobbiamo fare un altro referendum per abolire questo finanziamento. Secondo me dovremmo cominciare ad applicare le leggi, che è la cosa più importante. E come diceva il giornalista del Gazzettino, ciascuno di noi deve rendicontare da oggi perché qualcuno si sveglia e si accorge che ne ha mangiati troppi. Ma adesso mi pare che la prima cosa che si debba fare è comportarsi in maniera etica, comportarsi in maniera civile, comportarsi in un momento in cui siamo peggio che in guerra, perché dal dopoguerra ad oggi siamo arrivati in quest'anno ad avere la minor possibilità di crescita, la minor possibilità di spesa. Però Alberto, vedi, Alberto, se tu dici rispettare la legge, io ti faccio notare che se il signor Signorito poteva mettersi al mese in tasca una quantità legittima che sommata annualmente, l'abbiamo documentato ieri, è di un terzo superiore a quello del Presidente degli Stati Uniti, tutto ciò lo poteva fare legittimamente, nel senso che e per decisioni legittimamente dal punto di vista amministrativo assunte degli uffici di presidenza, che oltre a sommare la sua indennità diaria 16.000 euro, 8.000 euro e 8.000 euro come presidente di commissione e capogruppo, e quindi superare i 30.000 euro, se ne prendeva altri 120.000 l'anno di spartizione dei fondi dati ai partiti per il segno attività politico, e che l'ufficio di presidenza del consiglio regionale laziale aveva deciso legittimamente dal punto di vista della procedura di spartire tra i consiglieri. Quindi se tu dici rispettare la legge, il signor Fiorito ti ride in faccia, perché dice: io non ho commesso nessun reato, sappiate, a meno che voi non documentiate che poi ne ho presi anche in più, i famosi 100 bonifici sui conti esteri e così via. Il problema è che le leggi bisogna cambiarle, perché altrimenti lo Stato si è organizzato per confondere l'interesse collettivo con quello di chi sta pro tempore a fare politica, e questo che bisogna smontare. E quindi tant'è vero che quando i cittadini hanno detto lo smontiamo, loro hanno fatto marameo e l'hanno reintrodotto. E quindi io su questo non sono molto d'accordo con te, capisco cosa vuoi dire, ma non sono molto d'accordo. Roberto da Bergamo che dice? Buongiorno a tutti. I partiti, quando si trovano con il dito nella marmellata, tirano sempre per aria il discorso dei finanziamenti pubblici, di fare il referendum. Il referendum è una iniziativa che indica il fallimento dei partiti. Eh sì. Loro, quando non sanno cosa fare, si rivolgono al popolo. Il popolo è stufo di andare a votare. Cioè, anche tu non ci credi, quindi vorresti... Assolutamente, è una presa in giro. È una presa in giro. E invece cosa facciamo? E invece, come hanno saputo fare a ribaltare la frittata nel 93, portando il finanziamento, diventando rimborso elettorale, sì, alla chetichella. Esatto. E non siamo accorti. Oggi possono fare un decreto legge che questi signori, 1.000 persone, possono convertirlo in 24 ore. In cui? Senza andare alle lunghe. Ma in cui? Questa maniera di fare politica non è etica. Roberto, però anche tu dici che i partiti aboliscano. I partiti non aboliscano, lo hanno introdotto loro, Roberto. Quindi, perdonate, avete un tasso di... Io capisco cosa dite, che siete stufi, però questo significa essere ancora più irrealisti di chi crede che il Padre Eterno possa fare i miracoli ogni giorno rimediando i nostri errori. E il Padre Eterno, per chi ci crede, i miracoli li distilla, non è che sono ordinari per porre un rimedio alle stupidaggini umane. Quindi come funziona per il Padre Eterno, allo stesso modo non è possibile che gli stessi partiti che sono convinti di doversi dare più soldi e li moltiplicano, poi dite voi, vanno in Parlamento e lo aboliscano. Dove? In che film? Perdonatemi. Arrigo da Lodi, che ne pensa? Sì, buongiorno, io capisco la sua posizione, Giannino. Il problema è comunque è reale, nel senso che fare un altro referendum, spendere altri soldi, risparmiamoli per darli a Fiorito che tra 9 anni va in pensione, voglio dire, e tutto il resto della marmaglia che bellamente ci ride in faccia la loro prosopopea, e noi non possiamo fare niente. Cioè fare un altro referendum dove noi ci siamo già espressi, dove dobbiamo spendere altri 20 miliardi, cosa costa un referendum? Per sentire le solite posizioni politiche che noi cambieremo, noi faremo, ma abbiamo già la prova provata che queste cose poi non succedono, sì, cosa dobbiamo fare? Ho capito, Arrigo, ma allora mi spiega perché siete così convinti che è meglio stare a protestare al bar e a borbottare? No, è perché questo che non capisco. Aspetti, le ho mancato di rispetto. Sto dicendo semplicemente, io capisco che voi siete, è tutto inutile, per di più si tratta di spendere altri 200 milioni, più o meno il costo di una tornata referendaria, se non è abbinata ad altro, e tanto quelli fanno quello che vogliono, ma siamo a questo livello di totale rassegnazione, siamo gli sconfitti e basta allora, o no? Non c'è la rassegnazione, è diverso, c'è la constatazione che comunque noi come popolo veniamo interpellati in ultima analisi, come ha detto l'ascoltatore di prima, il referendum è, purtroppo, e ne abbiamo fatti tanti in questi anni, radicali, cioè io sono anche un po' stanco di andare per carità, capisco. Ne abbiamo fatti tanti, ci hanno tolto anche un po' la voglia di farlo. Capisco. Ma è il fallimento del politico. Ma il politico in Italia su questo ha fatto l'opposto. Siamo tutti d'accordo che è il fallimento del politico, però qua, come vedete, o ci si organizza dal basso o la politica resta malgrado i suoi fallimenti. Se ne fotte la politica del fatto che se non ci si organizza in maniera diversa. Questa è la mia banale constatazione, cioè la Seconda Repubblica è una colossale autorappresentazione di un lenimento a un problema alla fine della prima e il crollo del sistema dei partiti perché rubavano, perché di questo si tratta, che ha invece riproposto l'interesse personale di un capo azienda partito e di un personale politico di tutti i partiti che attraverso la cooptazione pilotata dall'alto nelle liste elettorali ha consentito a tutti il mangia-mangia. E siamo sempre lì, ma siamo su scala pazzesca, quindi siamo tutti d'accordo che è il fallimento della politica, però bisogna prendere le spallate consentiti da una società democratica. Ripeto, noi il referendum alla Svizzera non ce l'abbiamo, andare alla Corte Costituzionale come cittadini non possiamo e dobbiamo utilizzare quello che c'è oltre a fare nuovi partiti. E qui mi fermo perché sennò poi mi cacciano seduta stante se dico fermare il declino. Carmine da Salerno, sentiamo ancora lui cosa me la pensa. Carmine, anche per te è tutto inutile? Pronto? Prego Carmine. Buongiorno Gianino, le premetto che sono aderente a fermare il declino. No, l'ho fatto con estremo piacere. Le volevo però rappresentare un elemento importante. Io sono assolutamente d'accordo sullo strumento referendario, però è anche giusto valutare chi lo propone. Ora, se il signor Di Pietro e i suoi amici del partito propongono questo tipo di strumento, sarebbe opportuno però che avessero piena legittimazione attiva nel poterlo proporre. Perché? Perché questo partito, di cui Belisario sicuramente lei ha ascoltato prima, è un esponente sicuramente importante, è un partito che sa come fa le sue rendicontazioni contabili finanziarie, soprattutto a livello regionale, un foglio A4, un unico foglio A4 che viene usato praticamente per la stampante, dove dentro ci vengono messe una serie di voci e dove praticamente vengono indicate delle spese e delle entrate, non viene praticamente rendicontato altro che non sia praticamente questo semplicissimo foglio A4. Come lo so? Io sono andato via da questo partito, perché da un anno che sto chiedendo conti correnti, verifiche e rendicontate, soldi che arrivano dalla sede centrale e che da bilancio nazionale sono stati trasferiti ai bilanci regionali della Campania, ma anche delle altre regioni. Allora che cosa succede? Che sono in attesa praticamente che un magistrato, un giudice famoso a Berlino possa dire la sua su questa questione, laddove le condizioni lo dovessero consentire. Ma è anche vero che la situazione attuale non consente a chi è stato esponente di questo partito a livello regionale di poter guardare effettivamente. È questa. Io ringrazio Carmine, perché questo è un contributo straordinario, secondo me. Vero. Io dovevo ricordare anche a Belisario le indagini che riguardano anche alcuni loro esponenti, per esempio nel Consiglio regionale di Emilia-Romagna. Di Pietro ha dovuto dire: ha fatto bene chi ha fatto l'esposto in procura su quell'esponente del mio partito, ma la scarsa trasparenza della gestione e della contabilità d'Italia dei Valori che Carmine ci richiama è sicuramente uno dei temi sui quali dovremo tornare quando gli daremo una mano per il referendum. E mentre riparte This is the end, attenzione che la crisi europea sta ripartendo, gli spread risalgono, ve lo dico ogni giorno ma ci torneremo con una puntata dedicata. Andiamo in Campania perché c'è Leandro del Gaudio del Mattino e anche lì la procura sta indagando su un paio di milioncini e forse più di spese non ricondate al consiglio regionale. È così? Pronto? Pronto? Leandro, no, è così? Buongiorno, direttore. Allora, che ha fatto? La procura anche lì sta guardando un po' di soldini non rendicontati al consiglio regionale, o no? Sì, non fermo, questo tessera traccia di questa indagine che da una settimana tiene in fibrillazione almeno una cinquantina di consiglieri regionali. È bastato l'accenno ad aprire un'indagine perché chiaramente si creasse una situazione di tensione molto elevata. Ma anche lì cosa succede? Che i consiglieri si spartiscono i soldi del sostegno pubblico alle spese elettorali dei gruppi oppure no? Guarda, dati concreti e riscontrati non c'è nessuno. C'è un'indagine per peculato che investe un consigliere al momento e che ha portato la Procura ad acquisire tutte le carte che riguardano i bilanci e i rendiconti presentati dal Consiglio regionale negli ultimi 5 anni. Da quanto è emerso fino a questo momento, sembra chiaro che c'è una parte di fondi pubblici, parliamo di circa 6 milioni di euro l'anno, che viene rigorosamente attenzionata, viene rendicontata con fatture, con riscontri appunto fiscali per tutte le spese che vengono effettuate, mentre c'è un'altra parte che è molto più discrezionale e che subisce un controllo molto più lieve. Su questa parte di fondi pubblici ovviamente c'è attenzione perché ci potrebbe essere uno sperpero di denaro pubblico o un utilizzo privato di beni che invece dovrebbero essere destinati all'attività pubblica. È un'attenzione investigativa che nasce da un caso particolare, molto minimo, si trattava di un'assunzione di una donna all'interno di una si è esteso azienda. A tutto e che si prevede, tu che prevedi? Ma io prevedo innanzitutto ti dico che da ieri il Consiglio regionale si è dato, io sentivo prima il vostro dibattito, è bastato appunto l'accenno di un'indagine perché si arrivasse appunto a delle contromosse amministrative, cioè si farà in modo di rivolgere al Consiglio regionale meno soldi per fare in modo appunto che ci siano meno sperperi. Si sono tagliati un po'? Si sono autotagliati, per esempio ci sono delle iniziative per quanto riguarda i cosiddetti comandati, cioè quell'esercito, quella pattuglia di dipendenti. Allora Leandro, io ti devo reinvitare perché siamo andati lunghi. Yeah.